24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti in questo istante, parliamo di economia. Soldi e dintorni. Eccoci qui, Deborah Rosciani. Facciamo anche gli spiritosi stamattina con il volume. Il volume delle cuffie a posto. Tutto a posto, perché tutto ho sotto posto. Controllo il volume delle cuffie, allora ogni tanto gliela abbasso. Sì, sembra Cape Canaveral qui dietro qualche volta. Allora, buongiorno, l'ho annunciato prima, il vivere low cost, oggi questo è il tema. Tra l'altro, come abbiamo sentito anche in rassegna stampa, insomma, c'è una pagina sul Corriere della Sera, tutto a un euro, pare che proliferino i negozi della vendita tutto a un euro, nelle grandi città ce ne sono effettivamente tanti, no? Esatto, è vero, forse questa sarà magari la nuovissima frontiera ancora, sì, frontiera del low cost estrema. Esatto, la frontiera estrema. Oggi, come dire, cerchiamo di far conoscere ai nostri ascoltatori le vie che sono invece già conosciute, anche se potrebbero essere ancora di più conosciute. 9 italiani su 10, secondo il rapporto annuale di Asso Low Cost, scelgono tariffe e prodotti a prezzi stracciati e hanno fatto della filosofia low cost un vero e proprio stile di vita. Bisogna mediare fra i nostri desideri e le necessità del portafoglio, per cui il mondo low cost negli ultimi anni ha sicuramente spalancato le porte non più solo ai voli e ai viaggi, questo era sicuramente il canale più conosciuto, ma anche all'abbigliamento, al settore degli alimentari, all'arredamento, alle assicurazioni. Gli outlet sono diventati sempre di più una moda, il conto corrente si gestisce via internet, la benzina si acquista dai gestori indipendenti anziché dai grandi marchi, e tutto questo permette alla famiglia media di arrivare a risparmiare anche il 20-25% l'anno del proprio budget. Buongiorno ad Andrea Cinosi, presidente di Asso Low Cost. Buongiorno a tutti. Allora, le voglio chiedere subito, noi associamo ovviamente anche per la sua traduzione letterale il concetto del low cost proprio al basso costo. Low cost significa proprio tutto ciò che costa poco, dottor Cinosi? In realtà no, molto spesso erroneamente l'espressione low cost viene attribuita al prezzo finale del prodotto o del servizio. In realtà ciò che è low cost è il processo produttivo. Le aziende che operano nel low cost di qualità operano cercando di ottimizzare i processi produttivi, cercando di ridurre i costi in quelle aree della catena del valore che non riguardano specificamente la qualità essenziale del prodotto e del servizio, ma cercano di ridurre i costi in aree che riguardano la logistica piuttosto che il marketing, le vendite, l'organizzazione dei canali distributivi, in modo da ridurre poi il prezzo finale. Quindi non è vero che tutto ciò che è a basso prezzo è low cost, e questo ci deve aiutare a distinguere la virtù di alcune aziende che sono capaci di fornire qualità e valore al cliente da aziende che semplicemente riducono il prezzo perché offrono semplicemente minore qualità. Quindi, tanto per fare degli esempi pratici, dottor Cinosi, come fa una compagnia aerea a proporre un'offerta commerciale, un viaggio a un euro? Allora, anzitutto bisogna distinguere tra le offerte promozionali e il costo medio per tratta. Le compagnie low cost in realtà sono su un costo medio per tratta ridotto del 30-40% rispetto alle compagnie tradizionali, e riescono a farlo perché ottimizzano ad esempio la catena del valore utilizzando scali secondari, per cui costa meno lo slot per la compagnia aerea, mantengono l'aereo maggiormente in volo, hanno un più efficiente utilizzo del personale riducendo i costi delle operazioni di handling, quindi adottano una serie di ottimizzazioni che consentono di ammortizzare meglio il costo dell'aereo e quindi riescono a ridurre il prezzo. Ovviamente ci sono tanti altri settori, forse quasi tutti, che riescono ad operare oggi secondo, anche insieme al canale tradizionale, secondo una filosofia low cost, e poi faremo questi esempi e il dottor Cinosi ci dirà per esempio dove andare se vogliamo acquistare alimentari low cost o libri low cost oppure auto low cost. Ovviamente tutti i canali con i quali sicuramente i nostri consumatori che ci ascoltano si saranno imbattuti in qualche maniera. Andiamo però al settore delle compagnie assicurative, perché le compagnie di nuovissima generazione, quelle dirette che operano esclusivamente su internet, sono un tipico esempio di filosofia low cost. Buongiorno a Davide Passero, che è l'amministratore delegato di Genertel. Buongiorno a voi. Proprio il web è il canale su cui parte la prossima vostra sfida, che è un'operazione piuttosto curiosa, perché voi da oggi metterete all'asta le polizze assicurative. Dottor Passero, in cosa consiste questa vostra iniziativa, che ovviamente non poteva che chiamarsi Generazione Futuro? Ma parte da alcune considerazioni, e cioè quella di cercare un po' di ribaltare i punti di vista tradizionali. Quindi se la compagnia normalmente vista come una presenza fisica attraverso un'agenzia, noi abbiamo deciso di aprire un negozio virtuale in un punto di grande traffico del web come eBay, e all'interno di questo negozio virtuale non potevamo che non provare ad offrire anche delle polizze all'asta, che è uno dei meccanismi con cui su eBay si fanno affari. Come si fa? Questo... Come si potrà fare, dottor Passero? Ci dia proprio il, come dire, molto semplice, la modalità. Qualunque acquisto su eBay si potrà o acquistare subito, come si dice tecnicamente, e quindi comprarlo subito. Chi frequenta eBay conosce molto bene questa modalità, oppure partecipare ad un'asta iscrivendosi e registrandosi su eBay e facendo le offerte via crescenti al momento della chiusura dell'asta. Chi avrà offerto il prezzo più alto si sarà aggiudicato il prodotto o il servizio, in questo caso una polizza RC auto. Si potrà assicurare quindi l'auto, per esempio, perché io ho visto anche degli esempi nel vostro materiale promozionale, ho visto anche che si possono acquistare le polizze per la casa, per andare in viaggio con tranquillità, per la propria motocicletta. Assolutamente. Le polizze all'asta che metteremo all'asta saranno delle polizze RC auto, perché ovviamente questo è il prodotto, diciamo, più una conosciuto prova. Diciamo. Mentre sarà possibile ad acquistare direttamente dei prodotti specificatamente pensati per il web, quindi molto semplici a pacchetto, sia per i viaggi da 3-8 giorni Stati Uniti o piuttosto che il resto del mondo, sia per la casa con massimali crescenti da 100.000. Ecco, poi però per fare la firma conclusiva, per fare la firma conclusiva del contratto, dottor Passero, bisognerà comunque venire in agenzia? Assolutamente no. Noi da sempre concludiamo il contratto a distanza e non richiediamo la firma fisica del contratto. Infatti le nostre polizze sono assolutamente senza clausole vessatorie per questo. Andrea Cinosi, presidente di Asso Low Cost, cosa ne pensa di questa nuova frontiera del low cost, questa tappa ulteriore di cui abbiamo sentito questa mattina? Io direi il low cost anzitutto si connota per basarsi sull'innovazione. Molto spesso, se prendiamo in esame le aziende di successo, in alcuni casi fast mover, fra cui Genertel ne è un esempio nel campo assicurativo, danno l'esempio di come attraverso l'innovazione si possano proporre, in questo caso attraverso l'utilizzo di formule differenti e canali distributivi differenti, soluzioni di risparmio estremamente vantaggiose. Dottor Cinosi, tanto per concludere, perché ci manca un minuto di tempo, come le dicevo prima, vorrei fare alcuni esempi per far capire anche ai nostri ascoltatori come opera la filosofia del low cost, andando così a puntare su alcuni settori. Voglio comprare un'auto di questo tipo, oggi in Italia dove vado? E qual è oggi l'esempio che si può fare? Posso andare solo su Dacia, perché è l'unico esempio di auto low cost. Come dicevamo, low cost non significa solo prezzo basso, nel caso dell'auto significa paragonare il prezzo rispetto al segmento di riferimento. Quindi la Dacia è stata la prima casa che ha saputo innovare i processi di business e propone nel segmento B e nel segmento C delle auto che costano dal 30 al 40% in meno. In realtà non riesco a fare molti altri esempi, però magari ci può dire quali settori mancano all'appello, secondo lei? Ma guardi, abbiamo citato l'abbigliamento, l'arredamento, il settore auto, il settore dell'ottica e degli occhiali, l'RC auto, i conti correnti, attualmente si stanno sviluppando dei servizi comunque online, ad esempio architettura di interni online con progetti di architettura che costano. Insomma, 50 c'è ancora molto da fare, da quello che ho capito, non riusciamo a sviluppare questo discorso, lo faremo sicuramente in un'altra occasione. Grazie ad Andrea Cinosi e a Davide Passero. Alessandro, io concluso a Salvadanaio oggi. Banca Italease. Banca Italease, che futuro ha questa banca, visto che è stato compiuto questa sorta di salvataggio dagli azionisti di maggioranza dal Banco Popolare? Che fine fanno anche i piccoli azionisti di questa società? Le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle ultime notizie. Il presidente americano Obama vuole bloccare i bonus dei manager del colosso assicurativo AIG, salvato con soldi pubblici. Si tratta di 165 milioni di dollari che si dovrebbero spartire i dirigenti della società. Questa corporation, ha detto Obama, è in crisi per l'ingordigia e l'irresponsabilità ed è difficile capire come questa gente meriti un premio. In Italia il leader della Lega Umberto Bossi appoggia l'appello della presidente di Confindustria Marcegaglia e dice: ora servono aiuti alle piccole imprese. Oggi pomeriggio è previsto l'incontro tra governo e Confindustria sul tema. Torna in carcere Davide Franceschini, il 22enne accusato di avere violentato una ragazza nella festa di Capodanno a Roma. Il ragazzo, che si trovava agli arresti domiciliari, è la prima vittima del decreto legge antistupri varato dal governo, che vieta gli arresti domiciliari per chi è accusato di violenza sessuale. E infine la Corte d'Appello di Perugia ha riconosciuto 8.000 euro di risarcimento a Patrick Lumumba, accusato ingiustamente dell'omicidio Meredith Kercher a Perugia. Lumumba è rimasto in carcere 14 giorni e aveva chiesto un risarcimento di 516.000 euro. È il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato alle novità in arrivo negli studi di settore. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Nei prossimi giorni verranno rivisti gli studi di settore, adeguando i parametri fiscali alla congiuntura economica. Sono molte le segnalazioni di difficoltà che arrivano dal mondo del lavoro autonomo, dai professionisti e dalle piccole imprese. Il governo sembra volerne tenere conto. Nel Sole 24 Ore di oggi parliamo di come potrebbero cambiare i coefficienti attraverso i quali circa 200 diverse categorie produttive conoscono il loro livello minimo di reddito sul quale pagare le tasse. Il sottosegretario dell'economia Molgora esclude accertamenti automatici per chi non accetterà il risultato degli studi. Bisogna dire che gli studi di settore furono pensati per periodi normali, e questo non è certamente un periodo normale. Una valutazione più vicina alle reali condizioni in cui operano lavoratori autonomi, professionisti e piccole imprese potrebbe anche favorire, ammesso che ve ne sia la volontà, una più mirata lotta all'evasione fiscale. Buona giornata. Grazie, buona giornata e a domani, direttore, alle 8:35 minuti. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Un paio di giorni fa il ministro della giustizia Alfano ha lanciato l'allarme, un allarme che per la verità è periodico, sulle carceri italiane, carceri che scoppiano di nuovo. La capienza generale, la capienza ufficiale di 43.100 persone, le presenze attuali sono oltre 60.000, 60.570. Si è tornati nella situazione ampiamente pre-indulto, con il ministro Alfano che dice: in alcuni casi siamo fuori dalla Costituzione, sono violati i principi di umanità. Io saluto Clemente Mastella, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato, leader dell'Udeur. Senta Mastella, lei tante volte in interviste ha ricordato, insomma, che l'indulto giustamente è stato votato dal Parlamento ad ampia maggioranza. È un atto del Parlamento, certo. È votato. Un atto del Parlamento e non del governo. Un atto del Parlamento. È stato richiesto anche da Papa Giovanni Paolo II questo. Però voglio dire, lei è l'uomo che si è speso molto a dire, ha creduto molto in questo indulto. Vedere questi dati le fa pensare che sia stato un errore oppure no? No, era, come dire, una misura che comunque sarebbe stata ed era temporanea, cioè rispetto a una situazione drammatica come quella oggi richiamata in essere, per alcuni aspetti ancora più drammatica in quelle circostanze, il ministro Alfano era un modo con il quale tentare di risolvere in parte una situazione, ma in parte evidentemente questo richiedeva successivamente, del itinerario su cui si era incamminati, una serie di proposte alternative, perché io scoprì quando sono arrivato a fare il ministro che per realizzare un carcere in Italia passavano 10-15 anni, la migliore ipotesi, e allora destinai, cosa che in realtà si è fatto recuperando qualcosa, destinai i pochi soldi che in realtà erano messi a bilancio come posta per ampliare le carceri da dove già c'erano, e quindi per rendere funzionali un po' alcuni padiglioni che erano magari degradati, oppure ampliare un po' nelle parti dove c'erano carceri più nuovi, che era l'unico modo per, diciamo, esorcizzare questa situazione di enorme difficoltà. Accanto a questo però c'è un dato, insomma, se noi facciamo leggi in continuazione e ogni volta si arresta qualcuno, evidentemente non ci saranno mai carceri che tengono, quindi occorrono provvedimenti alternativi, modalità alternative. E a questo proposito, ha sentito la notizia del ragazzo che è rientrato in carcere accusato dello stupro alla festa di Capodanno, perché c'è il decreto legge, che ne pensa? Ma insomma, rientra in questo aspetto che io ho dichiarato. Ora non voglio qua, insomma, passare per indultista a tutti i costi, quindi non è che, perché sono il primo a ritenere che la certezza della pena sia un fatto incomputabile, insomma, ed è giusto che sia così. Però voglio dire, per una serie di reati credo che l'elemento dell'alternatività, come capita in tanti altri paesi, sia fondamentale, altrimenti insomma, il più veloce Achille che insegue una tartaruga non raggiunge mai. Cioè, io non credo che nei prossimi 5 anni si possa realizzare. Si apriranno alcune carceri che già erano previste precedentemente, credo a Rieti o qualche altra parte, ma al di là di questo non si va, insomma, quindi... E quindi un nuovo indulto, no? No, non sto chiedendo questo, sto chiedendo vie alternative, cioè voglio dire, dal punto di vista, insomma, di modalità che riguarda reati, che sono reati, insomma, secondo me, che hanno una punibilità che consenta di non creare problemi alla società intorno, alla vita di relazioni che uno ha. Sì. Questo è da stabilire, lo deve fare il legislatore, non certamente posso produrmi io in questo sforzo. Certo. Senta... Questa è una strada che molti costituzionalisti, coloro i quali si occupano di queste questioni, hanno indicato e indicano. Quindi non... Tra l'altro, Mastella, mi scusi, visto che io vorrei salutare Patrizio Gonnella, buongiorno, dell'Associazione Antigone, visto che il ministro Alfano ha lanciato questo messaggio, l'Associazione Antigone studia molto il sistema carcere, voi avete dato anche dei dati, che cosa vuol dire quando Alfano dice siamo in situazioni, in alcuni casi, fuori dalla Costituzione, di inumanità? Significa quali? Che in 13-14 metri quadri ci vivono 6 persone, che i letti a castello vengano sopraelevati fino al terzo piano e che le persone che vivono in quella cella non riescono a stare tutte contemporaneamente in piedi durante la giornata, che in alcune carceri non ci sono i letti, quindi si dorme sui materassi per terra quando va bene, che il rapporto fra detenuto ed educatore diventa un rapporto impossibile, perché non lo vedrà mai quell'educatore, non vedrà mai il medico, perché sono tanti detenuti e gli operatori sono pochi. E che ci sono, credo, anche quanti bambini sotto i 3 anni in carcere, perché nati da madri che sono carcerate? Più o meno una 60. Si dice sempre i figli non portano le colpe dei genitori, in questo caso davvero, davvero si può confermare. Senta, onorevole Mastella, quindi lei bisognerebbe fare pene alternative, più pene alternative, insomma, per invece di mettere in carcere. Ma guardi che questo esiste in altri paesi, certo. Un surrogato nostro, non è un modo, come dire, indultista per recuperare una situazione di drammaticità. Io che ho visto le carceri prima e dopo, quando sono state sguarnite, e quando era precedentemente, perché ho visitato queste carceri, era veramente un dramma. Se le pensa che a Napoli, nelle carceri napoletane, sono le carceri più sovraffollate che esistono in Europa. E vero. A fronte di 2.000 ce ne stanno 3.500, cioè è una situazione drammatica veramente, che poi contagia nelle difficoltà anche i poveri, diciamo, appartenenti alla polizia penitenziaria, perché evidentemente è un lavoro improbo a questo punto di vista. Comunque lei dice non è stato un errore l'indulto, è che è stato fatto quello e non è stato fatto quello che bisognava fare dopo, sostanzialmente è stata un'opera incompiuta, possiamo dire. Esattamente, sa, ricorderà che qualcuno ha detto se è stato l'indulto e non l'amnistia, poi sempre a dire che gli 800 che hanno votato l'indulto e hanno fatto l'amnistia, sia stata una responsabilità di non farlo, quindi non è che può essere incolpato chi ha realizzato quello, ma le ripeto, cioè è stato un atto in cui, se lei mi dice tra gli 800 anch'io c'ero, questo certamente sì. Certo. Ho visto che è diventato quasi un atto monocratico, sembrava che l'avessi firmato soltanto io quando ci sono state alcune proteste in giro, eccetera, ritenendo che tutto dipendesse dal lei. Però lo voleva, diceva, sì, lei lo voleva, lo sosteneva, era ministro, diceva bisogna farlo. E che sarebbe stato di un paese laddove, secondo quando ci riferivano fonti interne al carcere, siamo di scoppiare rivolte in piena estate, in cui avremmo fatto la figura di un paese che sarebbe stato tra i paesi, come dire, altro che nel G8, nel G98 saremmo precipitati, quindi era anche questo tipo di situazione. Però ripeto, se non ci fossero stati i grandi partiti tutti, non ci fossero stati gli 800 parlamentari, non si votava. E ripeto, non è stato un atto del governo. Non è stato un decreto, una legge. No, un atto del Parlamento. Dopodiché, tra gli 800, certamente c'era chi era più convinto, chi meno convinto, ero tra quelli convinti. Ero convinto perché mi comparavo con la situazione drammatica giornaliera di quella che mi aveva riferito e di quella che io ho stato audito. Senta, onorevole Mastella, ci sarebbe questa vicenda di Prodi che è riapparso, dopo 12 Guardi, mesi. Come scrivo un libro e che sto terminando in questi giorni, dirò la mia e quindi dirà tutto nel libro. Però dirò la mia opinione, la sua versione, sì. Dal libro. Certo, chi appare all'orizzonte, cosa che dichiarava anche in quella circostanza, e allora che la crisi politica scoppia quando Beltroni decide di andare da solo, cioè la sua autoreferenzialità ammazza il centrosinistra. E però poi Prodi dice si è affacciato Mastella, lei ha già smentito. Ha detto una cosa diversa e con replicate, cioè ho detto che fregavano lui e quindi come tale fregavano tutti quanti noi. Comunque, su un problema non soltanto mio, se lei ricorderà, e va a prendere i testi di agenzia o anche valutando dei vostri giornali, anche solo 24 ore, vedrà che riunioni erano a catene tutti i piccoli o quelli anche più meno piccoli del mio partito, da Rifondazione agli altri, che erano sconcertati per questa logica beltroniana. Questa è la verità. Ma quindi quando oggi Tonini a Repubblica, non so, Tonini è molto vicino a Veltroni, dice non nessuna nostalgia dei governi ostaggio di Mastella. Loro, ma non è un problema mio. Non è ostaggio di Mastella, insomma. No, immagino sia un ostaggio di Tonini che insomma ho conosciuto appena, insomma, non ho nessun tipo di... È strano, quando si facevano i governi con me... ero apprezzato, poi se invece erano diversamente no, insomma questa logica, questo doppio pesismo morale anche da parte di Tonini francamente inaccettabile. Comunque ripeto, non svelerà tutto, svelerà tutto il libro. Ci sarà il momento nel quale dirò anche la mia, quindi mi pare abbastanza evidente. Ma il libro esce quando lei si candida anche agli europei? Intanto si candida agli europei, però col PDL, anche questo lei l'ha spiegato e qualcuno ha detto ma come, accidenti, col PDL allora? Con chi mi candidavo? Col 4%, con quelli che erano comunisti e si mettono assieme, con la sinistra, si mettono assieme, visto col PD europeo dove ci stanno anche altre, quindi evidentemente è molto più familiare per me, avendo il PD invocato a tutti i costi e chiesta diciamo questa legge con grande volontà, evidentemente ognuno fa delle scelte o ti incontro delle situazioni che ci sono, mi pare abbastanza evidente. Va bene. Senta, nel salutare e ringraziare, ma lei Prodi non l'ha mai più sentito dopo? No, non l'ho più sentito. Mai più? E non berrebbe neanche un caffè, visto che insomma qua invitiamo a bere un caffè tutti? Assolutamente no, voglio dire, sa, Prodi se fosse... stato presente quando io mi sono dimesso in Parlamento anziché lasciarmi solo ed era là, si rimette il Ministro della Giustizia, mi si rimette il sottosegretario alle partecipazioni comunali della provincia della Namibia, insomma non, no? Lo volevo... era là, quindi come vede non... io a dire dove stava, comunque va bene, aspettiamo il libro, bene, sono un po' di curiosità anche per il libro, vabbè, insomma è un ottimo venditore del libro questo, E allora qualcosa diciamo anche di queste vicende verrà fuori. Va bene okay. La ringrazio, grazie per essere stato con noi Clemente Mastella e grazie anche a Patrizio Gonnella dell'associazione Antigone per parlare insomma i carceri, ma insomma, non solo, come avete sentito, poi la versione la scopriremo nel libro, in uscita a giugno, il libro di Mastella. Allora, l'ultima parte di 24 Mattino, parliamo dunque di questa nuova tipologia di reato, lo stalking, che proviene tipica, in termine infatti anche inglese, tipica all'estero, è stata introdotta in Italia e ieri leggevo sul Corriere della Sera c'è un boom di denunce. Voglio salutare la professoressa Anna Costanza Boldri, che è psicologa, criminologa, collabora anche con la squadra mobile di Roma. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi tutti. Se dobbiamo definire in 10 parole o poco più, insomma, che cos'è lo stalking, in modo che dobbiamo anche cominciare a fare, ad avere confidenza con questa nuova parola? Sì, adesso si usa il termine anglosassone perché forse una traduzione esatta non c'è in italiano, anche se si può usare il termine atti persecutori, molesti assillanti, si tratta di insieme di comportamenti sia di natura fisica, quindi inseguimento, molestie continue che possono essere sia a mezzo telefonico, attraverso messaggi, regali indesiderati, si tratta proprio di concetto che quello di qualcuno che ti perseguita appunto in maniera diretta, sì, attraverso contatti o tentativi di contatti o anche in diretta, quindi mandando regali indesiderati, lasciando sul cruscotto della macchina messaggi, ma addirittura anche gesti molto più gravi che di per sé già costituiscono fattispecie di reato, fino a minacce, aggressioni. Certo. Purtroppo tra l'altro la tipologia del cosiddetto stalker, cioè l'immagine che tutti abbiamo, è in genere un uomo che perseguita una donna. Purtroppo abbiamo visto che anche questo ha comportato anche degli omicidi, insomma si è portato anche a livelli di violenza molto molto forte. È soprattutto questa la tipologia, cioè un uomo che perseguita una donna o non solo? Sì, diciamo nella maggior parte dei casi, circa, insomma queste sono stime poi perché appunto date ancora ufficiali sul fenomeno attraverso appunto le denunce non ci sono, però anche attraverso esempio sportelli come lo sportello Astra di cui io sono responsabile appunto per lo stalking, vediamo che circa l'80-90% dei casi sono di donne perseguitate da uomini, nella maggior parte dei casi da ex, ed è appunto giusto il dato anche, ahimè, senza per questo creare allarmi inesatti, ma sicuramente c'è una forte correlazione fra comportamenti persecutori che possono precedere episodi anche più gravi, fino addirittura all'omicidio. Purtroppo ci sono stati dei casi, sì. Sì, esatto, proprio la cronaca in cui poi si è evidenziato, insomma, questo lavoro anche fatto poi dagli investigatori, che hanno evidenziato come poi c'era questo legame, questi comportamenti c'erano già stati precedentemente. Senta, è stato introdotto il reato, se c'è un boom di denuncia, ovviamente, nel momento in cui c'è un reato, ci sono le prime persone finite in carcere con questa accusa per reato di stalking. Le forze dell'ordine sono preparate a questa tipologia di reato? Ma devo dire che, ecco, anche prima dell'introduzione della legge, che è recentissima, a fine febbraio, già le forze dell'ordine avevano registrato questi comportamenti e ovviamente anche in assenza di normativa specifica hanno da tempo portato avanti azioni atte a prevenire una recidiva, o comunque a prevenire che questi reati potessero trasformarsi in qualcosa di più grave, se la vittima denunciava, ovviamente, perché molto spesso bisogna ricordarlo che le vittime di questi reati magari non denunciavano subito. Di vantaggio c'è nell'avere la legge, che è una qualcosa che, insomma, è sempre stata auspicata, creare una sorta di deterrente, perché il problema è questo, che di fronte a questi comportamenti a volte non si riusciva a individuare che cosa, certo, come poter intervenire. La tipologia di come perseguire, poi spesso si è sentito dire anche dalle forze dell'ordine a persone: guardi, non possiamo fare niente, non abbiamo gli strumenti, abbiamo le mani legate. Purtroppo sì, spesso si è sentito dire. Esatto, per reati come molestie, 660 il codice penale non prevede l'applicazione di misure, tipo appunto misure cautelari atte a prevenire una recidiva, comunque un'escalation di questi comportamenti. Quindi sicuramente il fatto che adesso c'è la norma, anche bisogna pensare chiaro, sia tutto risolto, perché è sempre comunque anche un discorso di prevenzione, di lavoro tempestivo. No, però c'è una cornice, ci sono degli strumenti di intervento, insomma, anche questo è giusto che ci sia. Io, tra l'altro, guardi, siccome, professoressa, abbiamo detto che la percentuale molto alta è di uomini che fanno reato di stalking nei confronti di donne, però ci sono anche casi diversi. Voglio salutare il sindaco di Gorgonzola, che è in provincia di Milano, Walter Baldi. Buongiorno, sindaco. Buongiorno a tutti voi. Lei è vittima di stalking, nel senso, possiamo dire tranquillamente così, nel senso, anche come amministratore, come primo cittadino, che è successo? Ce lo può raccontare in breve? C'era una persona che faceva che cosa? Sì, c'era una persona che aveva delle pretese impossibili a essere realizzate, nonostante l'amministrazione si fosse impegnata ovviamente in tal senso, perché cerchiamo sempre di fare quanto è nelle nostre possibilità. Cioè, che pretese? Che chiedeva? Pretendeva fondamentalmente una casa e anche un lavoro, però quello in secondo piano. La casa abbiamo trovato ospitalità presso una struttura della Caritas prima e poi presso un pensionato, ma il signore ha ritenuto non all'altezza delle sue esigenze. E quindi, insomma, che faceva? Possibilità. Ma devo dire che si presentava spesso e volentieri in comune, anche quando non invitato, anche fuori dagli orari di ricevimento del pubblico, e urlando, minacciando, perché poi il problema è che si può veramente anche arrabbiarsi, si può anche urlare, quello non costituisce ovviamente né motivo di, però non va bene che uno venga qua, urli e minacci, pensando che in questa maniera di risolvere i suoi problemi, di avere dei diritti che non ha. Leggevo anche, credo, di un'irruzione durante la giunta comunale. Ha fatto irruzione durante la giunta comunale, così appunto minacciando anche in quel caso alcuni miei assessori, perché io non sono l'unica, tra virgolette, vittima, insomma, di questa persona, ma se l'è presa un po' con tutti, anche con le signore che lavorano presso i servizi sociali. La persona è in carcere sostanzialmente? Mi risulta che sia stata tradotta in carcere, anche perché, tanto per cambiare, quando è stata bloccata dalla mia polizia municipale ha fatto ovviamente resistenza, minacciando, tanto per cambiare, anche gli agenti della polizia locale. Poi mi risulta che adesso sia già agli arresti domiciliari, penso in attesa di processo. Professoressa Boldri, la sensazione, per esempio, quando si vedono i grandi processi in America, quale campione di sport o attore, quanti hanno subito persecuzioni, appunto persone che li hanno seguiti, inseguiti, hanno fatto anche processi? Ieri si ricordava la bellissima tennista Kournikova, Uma Thurman, ma abbiamo anche Michelle Hunziker. So che la sensazione è che quelle persone siano un po' più protette rispetto alle persone comuni, o meno hanno più strumenti per difendersi e per tutelarsi rispetto a tutti noi? C'è? Diciamo che questi casi alla nostra attenzione ovviamente non paiono più eclatanti, perché sono personaggi famosi che più o meno conoscono in molti, quindi un caso di persecuzione subito da appunto personaggi famosi fa più effetto, e soprattutto si conosce, no? Perché il nome e cognome o il fatto delle decine e decine di vittime, la maggior parte donne che vengono perseguitate o nell'ambito di persone che conoscevano da parte di disconosciuti, così fa meno effetto. Il fatto di avere più o meno strumenti sempre spesso riconducibile al fatto se io conosco o meno, cioè persecutore, perché se una persona viene molestata, qualcuno che non ha conosciuto magari il contesto del lavoro o un altro ambito, ha meno difficoltà a rivolgersi alle istituzioni e chiedere aiuto, comunque chiedere di intervenire. Il problema è quando, cioè almeno nella mia esperienza, ma anche insomma la letteratura e l'esperienza anche all'estero è abbastanza concorde in questo, è che quando a subire persecuzione una persona con cui aveva avuto una relazione, in questi casi qui si cerca sempre, questo è il rischio grave, di trovare in maniera pacifica un modo per risolvere e gestire la situazione, e quindi si rispondono ai messaggi, si decide di incontrare la persona, si cerca di portare a ragionare. Può essere pericoloso e grave, dato sbagliato in questo senso, perché il linguaggio e la comunicazione non avviene nello stesso modo, nel senso che io cerco di dire una cosa a una persona e l'altro la ricevo. Sì, l'altro capisce nel modo quindi sbagliato. La cosa, diciamo, il messaggio a dare è chiunque subisca persecuzione, famoso o non famoso, da parte di persone di denunciarlo. Va bene, mi devo fermare qui, professoressa, è stata chiarissima con questo soprattutto messaggio finale. La ringrazio, così come ringrazio il sindaco di Gorgonzola. Sono davvero in chiusura, ricordo solo tra poco Giuliano Ferrara, parla dei giochi del Mediterraneo con Israele, che non è presente. I giochi del Mediterraneo ci saranno a Pescara a giugno in Italia. Noi ci sentiamo domattina.